Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. Vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino e bacia ancora. Noi abbiamo i prodotti più buoni del mondo. Jack, il nostro vino è meglio di quello francese. Tu non lo puoi dire. Io sì. Io non lo posso dire perché io... Quando l'ho detto a François Hollande, lui mi ha detto: sì, può darsi, però il mio è più caro. Game, set, match, François Hollande. I tuoi baci come il vino fanno dire al mio cuor: vino, vino, vino, vino e bacio ancora. Sono i gufi che salutano il... la narrazione, lo storytelling. The translation of Goofy, I think is not very easy, eh? Come? Night Owl. Sì, ma il problema è come gliela spiega adesso, se no... Questo spettacolo è... Ne parliamo a parte. Bella, bella, bella, al mondo nessuna c'è. Bella, bella, bella, dolcissima come te. Io mi ero preparato perfettamente, avevo il golfino falconero, me l'hanno fatto togliere. Ho anche la mutanda intimissimi, ma ve la risparmio. Credetemi sulla parola, il calzino si può verificare, la mutanda, credetemi sulla parola. Vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino e pace ancora. È tutto italiano, Renzi, anche nella mutanda intimissimi. Ci fidiamo sulla parola, sì, grazie. Certo, il problema è questo a Jack, Jack, sentite, Jack, è Jack Ma, cinese fondatore di Alibaba, uno che con un click dice: datemi il vostro vino, vi vendo 2 miliardi di bottiglie in pochi istanti in Cina. Jack, Jack, il problema è come tradurre goofy, goofy in cinese, sì, night owl, va bene, ma il significato di goofy, non lo so. Questo è un problema. È un problema effettivamente, carissimi amici. Io ce li ho, carissimi amici cinesi. Oggi proverò a chiedere come si dice goofy. Sì, mi diranno la traduzione letterale. Sì, ma il concetto, il concetto di gufo, cioè colui che spera che le cose vadano male, che nella story, nello storytelling renziano, non lo so come si possa tradurre in mandarino goofy, ma anche in inglese in realtà. Qual è il corrispondente di gufo? So, Obama, se evoca i gufi sulla sua amministrazione, cosa dirà? Non credo i night owls. Cioè, lo guardano con due occhi così. Questo è 24 mattino, amici. C'è Emanuele Brignoli che oggi conclude la sua sostituzione a Lorenzo Nespoli a quest'ora. Rimane con noi, ma esulta, tra l'altro. Peter Licenziato! No. C'è Peter Bescapè in regia. Oh, devo dire questa cosa. Nella lunga e perigliosa e travagliata traversata che affronta anche il ridicolo di questo nostro beneamato Milan, perché noi siamo il Milan, ricordate? Ci mancava anche questa che io da mesi avevo evocato dicendo: no, almeno questo risparmiatecelo, perché guardate che contano anche i titoli, le espressioni, cioè risparmiateci di poter vedere gli avversari dire pure è un Milan di brocchi. Niente, nello sprezzante sfregio del ridicolo abbiamo affidato il Milan licenziando Siniša Mihajlović, al quale io avrei lasciato la squadra per 15 anni a venire, ma ovviamente per questo mi hanno subito ascoltato, a brocchi. Tipo la squadra più forte del mondo e non la cambio neanche per solo. Questo Mariona Di Nolfi, ti sei riconosciuto? Riconosciuto nel campionamento dell'inno più bello della Serie A. Quello del Milan. Quello del Milan. A quanti punti? Non mi hai chiamato il lunedì, però parlavamo della partita. Parliamo già di non ti ho chiamato il lunedì perché sai che se io ti avessi chiamato il lunedì, sicuramente avreste vinto voi. Sicuramente, però, cioè senza ombra di dubbio. Ah, invece, capito, così mi sono tenuto. Quando hai segnato e sei andato in vantaggio, hai detto: ecco, perché non ho invitato Di Nolfi. No, quando sono andato in vantaggio, ho detto: ma tranquilli, adesso tanto. Non ho fatto nulla. C'era mio figlio Mattia che esultava. Ho detto: Mattia, vai a letto, dai, tanto domani ti dico il risultato. certo. Ero già ovviamente con il tono sconsolato, perché vabbè, insomma, Marione Di Nolfi, eccolo qua, candidato a Roma, sindaco con il popolo della famiglia PDF. Continuano a criticarmi, a dire: perché lo inviti? Basta, lo invito da 3 anni, 2 anni e mezzo che lo invito più o meno ogni settimana. Non ho capito adesso perché, siccome è candidato, non dovrei più invitarlo. Che faccio il razzismo al contrario. Ma poi si invitano i candidati sindaco, mi pare. Beh, no? Vabbè, però non è che li invito che... tutti. Insomma, tu hai un po' un privilegio, dai, su questo almeno devi okay, ammettere. Grazie, Milan, per il privilegio. E Milan visto... Di Brocchi, puoi dirlo. Milan Di Brocchi è bellissimo. Milan Di Brocchi. Sapevo che avevano vedere la campagna elettorale, mi fa perdere le cose. Quando l'hanno licenziato? Ieri sera, oggi c'è l'annuncio ufficiale. Ieri sera cena ad Arcore tra Berlusconi e Brocchi. L'imbarazzo della Gazzetta, che oggi titola: parte il piano B. Perché non vogliono titolare, che peraltro voglio dire, voglio sperare che non ritorni anche quello, cioè manca la B. Vabbè, lasciamo stare. Apriamo il Parlamento, perché insieme a Mariona Di Nolfi devo salutare il ritorno del parlamentare con la lingua biforcuta. Maurizio Bianconi, buongiorno. Buongiorno, biforcuta vuol dire che sono un bugiardo. No, biforcuta perché è cattivo, è un serpente. È un serpente. Gli indiani nei giornaletti dice: tu uomo bianco, lingua biforcuta, vuol dire che la bugiardo. No, io intendevo perché ho sempre letto Geppo. Se lo ricorda Geppo? Quello sì, dove... certo. Che c'è Satana, eccetera. Sì, sì, c'era il serpente con la lingua biforcuta. Sì. Quelli... Vabbè. Ha sentito Renzi? No, non l'ho sentito. Ho fatto il mio intervento molto migliore di quello di Renzi e sono venuto via. Ah, no, alla Camera, io intendevo Al Vinitali. No, pensavo che in Parlamento. No, io parlo di Costituzione e lui fa di giochi. Fa il disjockey. Vabbè, Renzi dice... allora lo facciamo sentire. Renzi ieri in una camera semivuota ha parlato di riforme. Ormai manca l'ultimo voto sulle riforme. Poi ci sarà il referendum. Renzi dice: oggi vince la democrazia. Quello che deve essere chiaro, eccolo, è che oggi vince la democrazia. Sostenere che vi sia stata una lesione della democrazia perché oggi il Parlamento sceglie, sulla base del modello previsto dalla Costituzione italiana, di modificare la Costituzione, significa fare a pugni con la realtà. Eccolo là, lei fa pugni con la realtà, Bianconi. E io faccio pugni con la realtà perché lui la Costituzione, cioè io gliel'ho detto, poi i giornalisti non ci sono, quindi lui ha una visione piuttosto relativa della Costituzione. Anche stamani Ainis sul Corriere della Sera glielo spiega un pochino, ma sì. Ma voglio dire, primo, il governo non può fare disegni di legge di riforma costituzionale perché è materia assembleare. Sì. Secondo, le regole sono di tutti e quindi non si può dire che se non passa una regola che ha fatto il governo va sotto il governo, perché allora non sono le regole di tutti, mm-hmm. È il programma governativo e quindi bisogna sottostare al programma governativo. Terzo, queste sono due cose abbastanza elementari. Terzo, il referendum confermativo è una tappa del processo di riforma costituzionale, mm-hmm. Non è un plebiscito su Matteo Renzi. Beh, lui l'ha messa così, se perde il referendum. Se l'ha messa così vuol dire che ha delle tendenze peroniste molto evidenti, tanto che si è messo intorno a Vita, perché senza Vita non va da nessuna parte neanche lui. Vita è la Boschi quindi stiamo Vita Boschi. Vediamo, c'è cioè uno che sfida un po' la Costituzione, non conosce la Costituzione. Solo. Poi c'è un'altra cosa, sì, che è merito, che ora non si può dire se è merito. Il merito magari esatto. A conti fatti, se un partito che prende il 34%, 30% dei voti può avere il 90% delle cariche dalla Corte Costituzionale, qua abbiamo il Presidente della Repubblica. Marione Di Nolfi, che è stato in Parlamento. No, sentiamo, però sta roba Marione ha fatto o fa un cosa fa? Un colpo di Stato a questo punto? È tutto regolare. Tutto regolare. Però non conosce le procedure. Le procedure sono corrette. Esatto. Le procedure sono quelle che in Parlamento si possono seguire. Io l'ho detto in tempi non sospetti in questa trasmissione, questo è un passaggio imperiale, Renzi fa un passaggio concentrando anche il referendum su un plebiscito Renzi sì, Renzi no, in cui Renzi si gioca la possibilità di detenere un potere immenso, questo va detto, se ne dovesse uscire vincitore dal referendum confermativo avrebbe un potere immenso tra le mani, ovviamente si chiamerebbe subito dopo le elezioni politiche, perché questo sì, sentiamo chiaro in testa, cioè se vince il referendum si va a votare l'anno prossimo, ma sicuramente pure se lo perde peraltro, quindi si va a votare l'anno prossimo, dovrebbe essere la notizia già acquisita da chiunque abbia un minimo di conoscenza dei meccanismi politici, sì. Ovvio, attenzione, ovvio, signori, ovvio l'annuncio di Mario Dinolfi, è ovvio che nel 2017 si vota, si febbraio 2017, cioè febbraio, si vota fra meno di un anno, sì. Quindi noi dovremmo cominciare a ragionare su... E Ale, parte un'altra campagna elettorale, parte. No, è già partita, perché abbiamo amministrative, referendum e politiche, una attaccata all'altra, e Ale, preparatevi a ragionare in questi termini, per non ragionare in questi termini non capite quello che sta accadendo. Vabbè, insomma, in campagna elettorale permanente con un centrodestra spappolato in tutto questo tu hai capito come definiresti gufo, tu che vai spesso in America, gufo Obama, non ho capito perché ho questa difficoltà anche nel no ma ho capito ma il significato in senso figurato. Proprio un gufo, ecco, abbiamo sarebbe anche un portagliella, diciamo così, perché è un vero e proprio gufo nel senso renziano del termine, diciamo così, però è un... Non è un animale simpatico. Bianconi ce lo dice invece in cinese, come si dirà? No, io conosco l'italiano appena. Non sono poliglotta. Comunque, è 50 anni che provo a parlare in inglese. Lo parlo meglio di Renzi, però meglio. Mi astengo perché ho più senso del pudore. È però una prova, guardi che poi a dirlo una prova gliela chiedo. Comunque, la notizia è questa, che Bianconi la pensa come quelli del Movimento 5 Stelle. Senti qua Di Maio che ha protestato. La logica, non ha cittadinanza. Non ha cittadinanza. No, non mi pare di no. Vabbè, senta qua Di Maio. Martedì prossimo si voterà al Senato per mandare a casa Matteo Renzi. Fino ad allora faccia la cortesia di non mettere mano alla Costituzione. Questa è una grande perché non è una un presidente novità del Consiglio legittimato, è sotto mozione di sfiducia. Di Maio, ma non solo, Bianconi la pensa come Brunetta, Brunetta, sì. Guardi che sbaglia. Loro fanno un discorso, mi perdoni sì, il francesismo, a cazzo di cane, perché loro pongono, non sapendo cosa fare, l'hanno fatto ieri mattina tutti, e io ero lì per conservatori riformisti, non ci ho neanche pensato ad accodarmi, dicono siccome c'è la mozione di sfiducia, prima votiamo quella, non fare oggi le riforme perché il 17 c'è il referendum e ci potresti guadagnare, ma questi sono tempi e schermaglie logiche della battaglia politica, il contenuto che c'è dentro questa cosa, la gravità, passa alla storia, io l'ho detto ieri che passerà alla storia, lui dice per la democrazia, io dico per il danno, ma comunque l'evento è talmente grosso che non si può sottostare alla cronaca politica della fiducia martedì. Voglio dire, c'è una piccineria, una miopia anche nell'opposizione, tant'è vero che Brunetta è d'accordo infatti, e che preoccupa. Sentilo qua Brunetta. Io direi che questa giornata è il De Profundis per Renzi e la sua non più maggioranza, che è minoranza profonda. Ma ragazzi, nel ma non lo sapevo, ma Marione, ma mi sono perso qualcosa. Martedì cade tutto, crolla tutto. Ma infatti, mi sembrava. Non cade niente, amici miei, non cade niente finché Renzi non decide che le cose cadano. Questo è il problema di questa legislatura, dove Renzi si è inserito in un vuoto oggettivo di forza delle opposizioni, di forza dei partiti, di forza delle leadership, non ci sono più leadership, i leader non siedono in Parlamento. Ieri quando parlava Matteo Renzi, vi siete visti la diretta, diciamo, del canale della Camera, c'era scritto dottor Matteo Renzi, forza del non essere l'onorevole Matteo Renzi, ma il dottor Matteo Renzi, cioè un corpo estraneo rispetto al palazzo, lui la sta portando a casa fino in fondo, devastando il palazzo, perché questo gli va riconosciuto, insomma lui sostanzialmente ha mandato già a casa una classe dirigente del PD, adesso manda a casa una classe dirigente di Forza Italia. Questa io non l'avevo notata, non l'avevo notata questa, dottor Matteo Renzi. Però, caro Marione, tra un attimo dopo il traffico, settimana scorsa tu ci hai detto che se potessi parlare a una donna incinta che vuole abortire, tu la riusciresti a convincere a non farlo. E proprio, guarda, che ti capita che dal Consiglio di Stato, dall'Europa, ci bacchettano proprio dicendo che in Italia l'aborto è troppo complicato perché ci sono troppi obiettori di coscienza tra i medici. Tra poco. Omina, e sono fiorentino. Questi qui di Radio 24 sono fissati sul traffico. Domandate una volta sì e una volta sì. Ciao Alessandro, ambasin da Turin, da Ines, ciao! Chi dice che i magistrati lavorano dovrebbe andarsi a vedere un tribunale dall'interno, uno qualsiasi. Mi sveglio tutte le mattine alle 5:30 da 35 anni. Meno male che c'è Meazza, Meazza forever. A Milan, dov'è finita la Lega? Quella che ce l'aveva col sud, con gli sprechi del sud, dov'è finita? Ma ciao Milan, hai digerito bene sabato sera? Ho dovuto prendere una scatoletta di digestivo Antonetto. Ciao Rutamante. Alessandro Milan, quando morirai i quotidiani inizieranno da pagina 2. Ma questo l'ho capita poco. Comunque va bene, siamo con Marione Di Nolfi. Tu l'hai capito, Marione? No, non mi è chiaro. Non ti è però chiaro, io ho sempre facendo. Detto che la segreteria telefonica è animata da psicopatici. No? Ecco, ma tutti elettori di Roma, ricordati, tutti elettori di Roma. Allora, Marione Di Nolfi, ci bacchettano. Oh, Bianconi, questa non lo so. Se alle 6:40 dobbiamo parlare di aborto, cioè questo. Ma... Però insomma, non lo so, però Marione però guarda, Marione sono le sue battaglie, sono le sue battaglie. I giornali cominciano da pagina 2, vuol dire che lei è talmente importante che non sanno cosa metterci. No, infatti un Milan di Brocchi, per esempio, un Milan di Brocchi potrebbero mettere. Marione, ma com'è che tu convinci le donne invece il Consiglio di Stato, il Consiglio Europeo ci dice che il Consiglio d'Europa che è stato detto che non è l'Unione Europea. No, certo. Ha accolto un ricorso della CGIL. Eccola. Allora, io dico che in Italia esiste una legge che si chiama legge 194 che riconosce Che tu vorresti abolire, ricordiamo. Che io abolirei volentieri perché sono convinto che non esista il diritto di abortire, esiste il diritto universale a nascere. Il diritto universale a nascere e che tutti gli abortisti hanno goduto di questo diritto perché altrimenti qui non sarebbero a fare la loro battaglia. E c'è il diritto per un medico di fare obiezioni di coscienza. E che sono troppi, secondo il Consiglio d'Europa. E io sono vorrei un po' che troppi. Il 100% dei medici che fanno un giuramento, che si chiama giuramento di Ippocrate, in cui giurano di non somministrare mai medicamenti che costringano, che causino la morte. Ora, mi piacerebbe che il 100% dei medici fossero obiettori di coscienza. Ah, evviva la libertà! E nel momento in cui c'è la legge e una donna vuole abortire, che fa? Usa gli spilloni come i ferri da maglia come un tempo. Il mio auspicio è poter convincere le persone, anche le donne, in questo tipo di scelta, di scegliere la vita. E questo è l'auspicio, però fintanto c'è la legge. Che scegliendo di far nascere un bambino si commetta un errore. Mi trova molto difficile spiegarmi che questo sarebbe vero. Non lo so, Bianconi, per chiunque. Anni di battaglie, qualcuno quando dice queste cose ci di quale valore? Su cosa? Bianconi, su lei che è un laico, dica qualcosa da di noi. No, a di noi si porta avanti questa battaglia insieme a molti altri. Io non sono un abortista spinto, ma non sono neanche un negatore come lui, insomma, voglio dire. È una pratica non eccessa anche per chi la subisce, oltre che per il bambino che non nasce, ma talvolta è necessario e non solo talvolta è necessario. Si è stabilito che si può fare, c'è una legge e va fatto. Ma questa è l'indicazione di un'Europa che vuole imporre anche in questa nazione dove comunque lo spirito cattolico è ancora molto vivo, vanno rispettati. Io sono non laico, sono laicissimo, ma sono laico anche perché i cattolici spesso non ci rispettano, voglio dire, invece io penso che vadano rispettati. No, ma la questione è Mario, tu puoi auspicare che fa obiezioni, è giusto che la faccia. No, certo, per... è che se si verificasse quello che dice lei si porrebbe un problema mica da poco. No, ma voglio dire, ma anche perché come con i calciatori li importeremo in mezzo ecco, l'auspicio, Marione, l'auspicio di avere il 100% dei medici abortisti è un auspicio che hai, e vabbè, come l'auspicio di abolire la legge 194 ce l'hai, e vabbè, ma fin tanto che c'è, cioè se da domani fossero 100% abortisti, la legge come si applica se una donna si importano. Li portiamo dalla Cina, Li importiamo da qualche parte, gente che non fa. Marione, che succede qua? Era anche il diritto all'obiezione di coscienza del medico, e si rassegnasse l'Europa a questo dato, i medici italiani e i medici cattolici inevitabilmente, ma non solo i medici cattolici, non riescono a praticare volentieri l'aborto. È un elemento, dobbiamo riuscire a capirlo. Questo è ma un infatti paese ormai... ce ne sono, ed è garantito talmente che dicono che ce ne sono troppi. Ma come si fa a dire ce ne sono troppi? Cosa vuol dire? Che no. Si lede il diritto di una donna di poter far ricorso alla legge e ti risulta il caso di una donna che possa dire non sono riuscita ad abortire? Magari hanno avuto difficoltà, caso. Magari hanno dovuto chiedere a un medico, due medici, tre medici. Cronisti. Allora, in Italia esistono 105.000 aborti tra quelli chirurgici e quelli in VRU486 all'anno, peraltro in una nazione che ha, rispetto alle 28 paesi dell'Europa, il tasso di natalità più basso in assoluto, 1,3 figli per donna. Sì. Abbiamo fatto come italiani 398.000 figli nel 2015, abbiamo abortiti 105.000. Contemporaneamente sono morti 650.000 italiani. Sì. Cosa significa una cosa del genere? In Italia muore così. Sì, e noi dobbiamo per forza incentivare cosa? La possibilità di abortire di più, secondo l'Europa, per impoverire di più l'Italia. Questo è quello l'Italia che tu contro figli, cui combatti. L'Italia più povera, Va bene, va bene. Noi ci dobbiamo fermare, però non ci hai spiegato come perderai 40 kg, perché questo hai detto. Manca, insomma. Correndo, ha iniziato insieme a Brocchi. Brocchi può ingaggiare. Ha iniziato la dieta. Ho iniziato il mercoledì e il venerdì e la dieta di Maria, pane e acqua. Pane e acqua, la dieta di Maria Bianconi, la dieta di Maria, vabbè, no. Così, no, scherzo, così tutto. E cura l'anima e cura il corpo, va bene. Ha promesso aspetta, non me lo dica, se la tenga, perché devo chiudere, me lo dirà la prossima volta. La cosa che ha promesso è perdere 40 kg, che vi devo salutare, purtroppo il tempo è tiranno. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qui, cari ascoltatori, alle 7:19 minuti, siamo pronti con la rassegna stampa. Vi ricordo che oggi avremo ospite Yoram Gutgeld. Alle 8:40 è responsabile, è uno dei consiglieri economici del governo, è responsabile della spending review, cioè la revisione della spesa pubblica. E allora, che dire, andiamo a vedere come titolano i giornali oggi. Siamo qui in questo martedì 12 aprile, intanto le aperture, chi sceglie l'apertura sulle banche, Il Sole 24 Ore, banche, maxi fondo da 6 miliardi, via libera al piano Atlante che dovrà ricapitalizzare gli istituti in difficoltà e acquistare i crediti in sofferenza. Così anche la stampa, un fondo da 6 miliardi per salvare le banche, pensioni, giallo nel DEF, il giallo nel DEF delle pensioni. Il giornale, banche, cambia tutto, ricapitalizzazioni, sofferenze, crediti alle aziende, in arrivo maxi fondo da 5 miliardi. Poi la politica, Renzi e le riforme, mi gioco tutto sul referendum, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. E così invece il titolo trionfale e trionfalistico dell'Unità, prima Repubblica addio e senza rimpianti alla Camera, ultimo voto per la riforma. Repubblica invece, il voto un dovere, sulle trivelle l'effetto consulta.